bisogna sottolineare che si pone il problema che può uccidere il gatto. Si spera che tutti siano onesti. Detto questo, la mia risposta è che non lo so. Succede. Caccia al fotone. Interferenze scientifiche in Creative Commons. A cura di Fabio De Sicò. E benvenuti cari ascoltatori alla puntata numero 193 di Caccia al Fotone, il podcast scientifico che ogni settimana vi intrattiene con amene discussioni su scienza e dintorni. Su internet ci potete trovare al sito www.cacciafotone.it. Questa settimana ci occuperemo di fisica, chimica, ma soprattutto di nanotecnologie. Cari ascoltatori, in questa puntata parleremo di un argomento forse a voi noto. Parleremo di semiconduttori. Chi di voi non ha mai aperto un computer oppure non ha mai visto un pannello fotovoltaico? Beh, il contenuto del computer, cioè l'interno del computer oppure il materiale di cui sono composti la maggior parte dei pannelli fotovoltaici è appunto il silicio, un semiconduttore. Molto interessante se lo droghiamo positivamente o negativamente. Ma noi quest'oggi non parleremo di semiconduttori inorganici, ma parleremo di semiconduttori organici. Ne parleremo col dottor Gianluca Latini, postdoc presso l'Istituto Italiano di Tecnologia di Lecce e secondo autore di un paper pubblicato qualche giorno fa su Archive, un preprint, intitolato Charge Separation by Photo Excitation in Semicrystalline Polymeric Semiconductors. Buongiorno Gianluca. Buongiorno, salve a tutti. Gianluca, con te parleremo di questo paper e parleremo soprattutto di come possono reagire i semiconduttori organici allo stimolo luminoso e quindi a questo punto lascio a te la parola per le 100 parole iniziali con cui introdurremo la trasmissione. Grazie. Dunque, quello di cui vi parlerò oggi è un lavoro di fisica sperimentale dello stato solido e su semiconduttori organici, ovvero delle molecole speciali che hanno alcune proprietà di trasporto elettrico simile a quello dei ben più noti semiconduttori inorganici tipo il silicio. Il lavoro si inquadra nel contesto della cosiddetta elettronica plastica ed in particolare nel fotovoltaico. Abbiamo studiato alcuni aspetti fondamentali della fotogenerazione di cariche all'interno di una di queste molecole, in realtà un polimero, quindi una macromolecola, che è quindi plastica, i polimeri sono plastica, e in base al fatto che i polimeri formano strutture disordinate ma anche contengono anche un certo grado di ordine, in base a questo concetto scopriamo che mediante tecniche di spettroscopia scopriamo che le cariche eccezionalmente prodotte in questa molecola vengono generate all'interfaccia tra le regioni disordinate e quelle ordinate. Gianluca, grazie. A questo punto ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio e poi di nuovo all'interno di Caccia al Fotone. A dopo. Al mio segnale, scatenate l'inferno. This guy's you. Clouds in the Sky dei Last Confession. E questo è il primo pezzo musicale che abbiamo scelto all'interno della 193esima puntata di Caccia Fotone, all'interno della quale stiamo parlando di semiconduttori organici e ne stiamo parlando col dottor Gianluca Latini, postdoc presso l'Istituto Italiano di Tecnologia di Lecce. Gianluca, tu lavori presso questo istituto da circa 8 mesi. Cosa facevi prima e come ci sei arrivato? Beh, dunque, io ho lavorato dopo il dottorato in Italia, a Roma, ho conquistato alcune borse di studio per l'estero, e in particolare per la Gran Bretagna, e dove sono atterrato, e dopodiché mi sono fatto un po' strada in Gran Bretagna, in particolare allo University College London, poi all'Università del Surrey e poi all'Imperial College London. Dopodiché mi sapevo dell'apertura dell'Istituto Italiano di Tecnologia, delle opportunità che si presentavano, dell'ottima ricerca che si fa all'Istituto di Lecce in particolare. E ho provato a farmi vivo, insomma, c'erano le opportunità. Senti, qual è stato il percorso di studio che poi ti ha permesso di approfondire l'argomento dei semiconduttori organici? Tu sei un fisico sperimentale. Esatto. Sì, beh, dunque, in Gran Bretagna in particolare, dove l'elettronica plastica, l'elettronica organica di cui si occupa la mia linea di ricerca, è molto sviluppata da tempo, quindi lì è venuto abbastanza naturale andarmi a impelagare, diciamo, nell'elettronica organica. Diciamo, è molto interessante perché i semiconduttori organici effettivamente hanno delle caratteristiche estremamente appetibili dal punto di vista tecnologico, e quindi così. Senti, scusa se ti interrompo un attimo, tu stai parlando di semiconduttori organici. Ora, nella nostra testa alla parola semiconduttore associamo il silicio, che è poi il materiale di cui sono composti i pannelli fotovoltaici e che compone, insomma, le parti interne del computer. Ma esattamente quelli organici che cosa sono? Allora, sì, questa è una buona domanda, perché per organico si tende sempre a pensare tipo che uno costruisce dei circuiti con i residui delle bucce di banana, però organico in realtà si riferisce al fatto che queste molecole contengono il carbonio, che poi è quell'atomo così speciale che sta all'origine, alla base delle cellule, delle molecole che sono alla base della vita. Però in realtà l'uso della parola organico si riferisce solamente alla presenza dell'atomo di carbonio in queste molecole. Quando si lega ad altri atomi di carbonio all'interno di una molecola, questo atomo tende a modificare la propria struttura elettronica, cioè si ibridizza, e la nube elettronica che lo circonda si delocalizza attraverso più atomi. Questa delocalizzazione rende il materiale parzialmente conduttore, ovvero un semiconduttore, e di qui, per analogia, viene spontaneo pensare di poter riprodurre tutta la tecnologia basata sui semiconduttori tipo silicio, il Pentium che c'hai in mente anche tu, con queste molecole che avrebbero il vantaggio di essere, ad esempio, flessibili, produrre tantissimi altri oggetti che magari non sono possibili fare con i semiconduttori inorganici, non lo so, ad esempio introdurre oggetti di tipo optoelettronico all'interno di capi d'abbigliamento, oppure la possibilità di spalmare questi dispositivi dei pannelli solari su edifici, o, insomma, chi più ne ha più ne metta, l'interesse è gigantesco. Alcune di queste applicazioni sono andate in porto, cioè questa tecnologia ha mantenuto la promessa, ad esempio nel caso dei LED o dei diodi emettitori di luce, ormai sono già entrati nel mercato televisori oppure display per telefoni cellulari. Altri aspetti non sono maturati, ad esempio la possibilità di fare circuiti logici veloci quanto quelli a semiconduttore inorganico, che avrebbero consentito lo sviluppo di computer a semiconduttore organico. E questo è dovuto al fatto che le proprietà di trasporto non sono così buone ancora come quelle dei semiconduttori, dei vecchi semiconduttori inorganici, diciamo. In questo momento c'è una tecnologia emergente che risulta essere molto promettente, che è quella relativa al fotovoltaico. Quindi siamo ancora a livello di laboratorio. Però le performance dei dispositivi da laboratorio iniziano ad essere vicine a quella soglia per cui le industrie possano essere interessate, e quindi possiamo dire che siamo in questo settore, siamo in un periodo di transizione, cioè siamo vicini a quella soglia per cui si uscirà dai laboratori e si andrà all'interno all'industria, ecco. Gianluca, prima hai citato una parola che gli addetti ai lavori conoscono molto bene, ma che forse qualche nostro ascoltatore non conosce, quindi varrà anche la pena spiegarglielo. Polimero. Che cos'è un polimero? Dunque, sì, il polimero è una macromolecola costituita da una unità, quindi piccola, che poi si ripete formando una catena molto molto lunga, che può raggiungere anche milioni di unità, quindi forma un grosso spaghetto, un lunghissimo spaghetto, e quando depositato in stato solido come film, allora che succede? Che questo lungo spaghetto forma la cosiddetta quella spaghetti straccio, cioè una struttura a spaghetti, e quindi tutto aggrovigliato, però che presenta proprietà meccaniche estremamente allettanti, cioè la possibilità di flettersi senza però formare dei crack che distruggerebbero un eventuale dispositivo. E allora adesso musica e poi di nuovo in studio per parlare dei risultati del vostro lavoro. A dopo. Ragazzi, se la realtà fosse così. Come on dei Last Confession, vi do il benvenuto nella seconda parte di Calciofotone. Come sanno gli ascoltatori, è la parte più corposa, la parte in cui essenzialmente si descrive il contenuto del paper che descriviamo ogni settimana. E questa settimana siamo in compagnia col dottor Gianluca Latini, postdoc presso l'Istituto Italiano di Tecnologia di Lecce. Ecco, con lui stiamo parlando di un preprint pubblicato qualche giorno fa su Archive. In questo preprint si parla dei semiconduttori organici, ne abbiamo provato a parlare nella prima parte della trasmissione, e quindi in questa seconda parte della trasmissione proviamo a esplorare davvero il contenuto di questo paper, cercando di capire come è stato svolto questo lavoro. Prima di tutto, Gianluca, una domanda: tu lo definiresti un lavoro di fisica, di elettronica oppure di chimica? No, questo è un lavoro di pura fisica sperimentale, inquadrato in un contesto di grosso interesse tecnologico, però è decisamente un lavoro di fisica, seppure così come in parte ho accennato, ma non ho detto in modo diretto, questo settore di ricerca è un settore decisamente multidisciplinare che coinvolge molte discipline scientifiche, non solo la fisica ma soprattutto chimica, per esempio, nella situazione in cui c'è da progettare, ingegnerizzare nuove molecole, e scienza dei materiali per il controllo della struttura di queste molecole, e poi l'ingegneria per la fabbricazione di dispositivi funzionanti, ecco. Gianluca, prima, quando ci spiegavi la differenza fra i semiconduttori organici e inorganici, ci hai detto che quelli organici si differenziano da quelli inorganici proprio per il fatto di avere nella loro struttura l'atomo di carbonio. Vorresti essere un pochino più preciso? Come è composta la molecola in cui è inserito l'atomo di carbonio? Beh, tipicamente alla base dei semiconduttori organici c'è l'atomo di carbonio, che, come dicevo, una volta all'interno di una molecola in cui ci sono altri atomi di carbonio, e consente la delocalizzazione della nuvola elettronica e quindi il trasporto. Tipicamente l'anello benzenico, cioè questo anello a esagono in cui ci sono 6 atomi di carbonio, costituisce tipicamente il mattone fondamentale delle molecole, che poi dopo vengono a loro volta ingegnerizzate, modificate, funzionalizzate in modo tale da soddisfare le caratteristiche richieste dal dispositivo. Questa in effetti è l'altra caratteristica estremamente interessante di queste molecole, cioè la possibilità di pensare a tavolino attraverso strumenti di chimica teorica una molecola con delle specifiche caratteristiche e poi fabbricarla, e quindi in qualche modo accordare le caratteristiche volute pensate a tavolino, ecco. Approfitto di questo per farti una domanda. Qualche tempo fa, proprio quest'anno, abbiamo intervistato il dottor Gabriele Grosso del Butov Group, con cui abbiamo parlato dei cosiddetti eccitoni. Ecco, gli eccitoni sono particolarmente, diciamo, coinvolti all'interno di questo lavoro, ma in che modo sono coinvolti queste, diciamo, particelle temporanee? Gli eccitoni sono pesantemente coinvolti in questo lavoro perché costituiscono la fotoeccitazione primaria in questi materiali organici. Diciamo che l'eccitone consiste nella, diciamo, l'interazione, la materia interagisce con la radiazione luminosa, e quando un fotone interagisce con la materia, questa si eccita e va in uno stato eccitato, che viene tipicamente chiamato eccitone. In questo stato eccitato l'elettrone, che è tipicamente legato alla molecola, è parzialmente slegato, diciamo è eccitato e rimane comunque legato, ma è un po' meno legato, diciamo, e quindi forma una sorta di struttura idrogenoide in cui c'è un nucleo positivo e un elettrone intorno che forma delle orbite precise, E questa qui è uno stato della molecola eccitato che viene tipicamente chiamato eccitone. Dopodiché, questo è un primo passaggio del processo fotovoltaico che in realtà poi dopo viene in parte discusso in questo lavoro, perché questa è una parziale, dopo questo primo passaggio eventualmente queste molecole possono o disecitarsi mediante radiazione, quindi riemettono un altro fotone con tipicamente energia più bassa e quindi si ha il fenomeno della fotoluminescenza, oppure questa eccitazione viene dissipata via altre vie non necessariamente radiative, che possono essere termiche, quindi semplicemente il materiale si scalda, oppure questo elettrone che è eccitato, diciamo, si slega completamente dal nucleo dal quale era originario, formando un portatore di carica libero che eventualmente potrebbe essere utilizzato all'interno di un dispositivo fotovoltaico. Senti, ora proviamo a fare un attimo un esercizio, un po' un salto nel tempo all'indietro. Fai finta di trovarti di nuovo sul tuo banco di lavoro e immaginati lì pronto a fare per la prima volta il tuo esperimento che poi ha portato alla scrittura di questo lavoro. Che cosa fai come prima cosa, che cosa fai come seconda, insomma come avete svolto questo esperimento? Beh, si tratta di un lavoro di spettroscopia, il che significa che andiamo a studiare l'interazione radiazione-materia, quindi servono delle sorgenti luminose e quindi queste possono essere lampade oppure laser. Alcune delle grandezze che vogliamo andare a studiare evolvono nel tempo, quindi potrebbero, abbiamo utilizzato dei laser impulsati in cui la radiazione viene concentrata temporalmente, quindi arrivano degli impulsi laser e poi dopo noi vediamo l'evoluzione di alcune caratteristiche fisiche del sistema. In particolare in questo lavoro ruota attorno alla fotoluminescenza risolta in tempo, dopodiché il campione viene inserito all'interno di un cosiddetto criostato, in cui il campione viene tenuto in vuoto per evitare intanto fenomeni di ossidazione, quindi di degradazione della molecola, ma anche per consentire la discesa in temperatura e poter eseguire la misura a bassa temperatura, in modo tale da poter esplorare tutti quei fenomeni che vengono attivati termicamente e quindi isolare questi fenomeni e fare un'analisi dettagliata dei fenomeni fisici coinvolti. Cosa intendi per fotoluminescenza? La fotoluminescenza è una delle modalità di interazione tra la radiazione e la materia, è quel fenomeno per il quale un fotone, un quanto di energia viene assorbito dalla materia e poi viene riemesso dalla materia stessa. Gianluca, prima di andare con un altro piccolo pezzo musicale, volevo farti una domanda che è un po' il dettaglio del vostro lavoro. Quanta energia esattamente avete sparato sul polimero e in quanto tempo il polimero ha reagito, quindi in quanti nanosecondi? Allora, noi abbiamo eccitato il polimero con energia dei fotoni corrispondente al visibile e quindi intorno ai 2,2.3 electron volt, 2,33 per la precisione, insomma, se vogliamo entrare proprio nel dettaglio, che corrisponde a una lunghezza d'onda tipica del visibile, un blu abbastanza brillante. E il laser era impulsato a un centinaio di femtosecondi, quindi arrivavano impulsi lunghi un centinaio di femtosecondi, un femtosecondo è 10 alla meno 15 secondi, e poi dopo noi andavamo a studiare come rispondeva il materiale nel tempo, quindi la fotoluminescenza risolta nel tempo, su una scala temporale molto estesa, andando ad analizzare la regione temporale nell'ordine dei sub nanosecondo, quindi centinaia o decine di picosecondi, e poi vedere come evolveva fino ad arrivare ai microsecondi. Quindi abbiamo esplorato ben 6 ordini di grandezza sulla scala temporale. Quindi diciamo che lo scopo ultimo di questo lavoro è trovare dei materiali che rispondano meglio di altri alla radiazione luminosa e che siano utilizzabili per applicazioni fotovoltaiche. Questo è lo scopo ultimo. Diciamo lo scopo ultimo in questo caso era quello di andare a capire le caratteristiche fisiche di generazione fotovoltaica, diciamo, insomma di generazione di carica, su questo polimero, che è un polimero un po' speciale, perché è il polimero per il quale quando miscelato con un'altra molecola, tipicamente un sistema fotovoltaico organico è sempre costituito da due elementi, il donore e l'accettore, cioè l'elemento che assorbe la radiazione luminosa genera l'eccitone, e poi un altro che è in grado di accettare ciò che viene donato dal primo, che sarebbe poi l'elettrone, e che poi deve essere estratto al di fuori del dispositivo. Ora il P3HT, questo è, diciamo, l'acronimo del polimero che andiamo a studiare, è un polimero un po' speciale perché per tanto tempo, ora è stato superato, però per tanto tempo insieme al PCBM, che è la molecola che andrà a fare da accettore, che non è altro che un fogliettino di grafene, tanti esagonini di grafene che vengono arrotolati su se stessi e formano una sferetta tipo pallone da calcio, ecco, sembra. E insieme a lui, ecco, questo il sistema P3HT, PCBM, questi due oggetti insieme hanno costituito per tanto tempo il sistema fotovoltaico a semiconduttore organico più efficiente. Ultimissima domanda: a chi l'avete sottoposto questo lavoro? Perché questo è un preprint. Questo lavoro è stato sottoposto a Physical Review Letters, che è un giornale di fisica, e basta, proprio a sottolineare il fatto che si tratta di un lavoro di fisica generale. E è una rivista, per chi non è addetto ai lavori, molto prestigiosa. In fisica è stata tradizionalmente la rivista più prestigiosa, diciamo che adesso è in competizione un po' con Nature Physics, un'altra rivista nuova, però tradizionalmente è sempre stata quella un po' più prestigiosa, quindi perché ci aspettiamo che questo sia un lavoro d'impatto, ecco, insomma. E allora musica e poi di nuovo in studio con la domanda zainetto. A dopo. Grande Giove. E siamo nella parte finale di Calcio Fotone, siamo sempre in compagnia col dottor Gianluca Latini dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Lecce, e quindi andiamo con la domanda zainetto. Che cosa salveresti di questa ricerca e metteresti nel tuo zainetto da ricercatore per portarti dietro nelle prossime ricerche? Insomma, che cosa ti ha regalato questa ricerca in più per la tua carriera da ricercatore? Ma ci stanno, come sempre quando uno fa un bel lavoro, sono più le domande che emergono delle risposte che vengono. Per una risposta che viene data ne stanno altre 3 o 4 domande a cui rispondere, che poi possono trasformarsi in linee di ricerca future. Diciamo che le cose sulle quali vorremmo continuare ad investigare è il, a questo punto, passare al controllo fine della microstruttura del polimero, quindi questa parte, porzione ordinata e porzione disordinata, provare a giocare con il rapporto tra queste due porzioni e tunare, in qualche modo accordare, modificare le proprietà di generazione di carica. Poi è anche emerso alcuni fenomeni interessanti come come quello dello Stark effect, che è quell'effetto per il quale la presenza del campo elettrico modifica le proprietà spettroscopiche di una molecola che noi crediamo di osservare in una delle misure che abbiamo fatto, e che l'attribuiamo questo effetto alla presenza massiccia di cariche più o meno libere all'interno della matrice polimerica, che modifica le caratteristiche spettroscopiche del materiale. Quindi questo è anche un altro settore su cui andremo a investire decisamente molte energie. Poi all'interno del lavoro noi non abbiamo parlato molto, ma c'è anche una parte di modellistica di cui utilizziamo solo una parte, ma che nel frattempo abbiamo sviluppato. C'è anche un'altra parte che vorremmo andare a sondare, quindi svariate cose. E allora si conclude così la 193esima puntata di Cacciafotone. Intanto ti ringrazio, Gianluca. L'appuntamento è per tutti voi alla settimana prossima con la puntata numero 194, e l'augurio è il classico di buona scienza a tutti. Gianluca, grazie ancora. Grazie a voi. E con chi stai parlando? Dici a me?